Buongiorno, benvenuti, bello esserci, voglio dare il benvenuto a chiunque qui è per la prima volta. Flavia, dov'è Flavia? Eccola, vedo anche che c'è Ludovico e Fiorella in mezzo a noi, benvenuti. Questo è un applauso a fiducia, perché non lo conoscete, quindi... A fiducia, gli diamo il benvenuto, ma anche un benvenuto a Santiago, che è qui dall'Argentina, pronto a partire in missione, siamo così contenti. Ieri è partita Giuliana in missione, preghiamo per i nostri ragazzi, perché stanno vivendo davvero delle esperienze straordinarie e si lasciano guidare dallo Spirito Santo. La parola di Dio, ci piace? Vogliamo ascoltarla insieme? Cosa dice Atti, capitolo 13, dal versetto 4? Una delle più belle storie che troviamo negli Atti degli Apostoli. Leggiamola insieme, concentratevi, ascoltate. Dice, essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, qui sono Barnaba e l'Apostolo Paolo, che vengono mandati dalla Chiesa ad Antiochia per il loro viaggio missionario, e quindi i versi vanno avanti dicendo... Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia, e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, se non sapete dove sono questi posti, state cercando un posto per le vostre vacanze quest'estate, consiglio Salamina. Annunciarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Poi, ascoltate ora, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole». In quell'istante oscurità e tenebre piombarono su di lui e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Bella storia, vero? È una storia meravigliosa e ci presenta una realtà importantissima. Noi qui troviamo un personaggio importante in questa storia, che è questo mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù, che significa figlio di Gesù. Aveva attribuito a sé un'appartenenza che non era sua. L'Apostolo Paolo lo definisce figlio del diavolo. Il motivo per il quale io vorrei che noi ci soffermassimo su questo personaggio è perché noi vorrei che noi tutti considerassimo il fatto che il maligno è all'opera. Stamattina io voglio ricordarti che il diavolo è all'opera. Il diavolo sta operando, il diavolo non si ferma, il nemico è continuamente all'opera. Lui è all'opera ora, sulla tua vita, sulla mia vita. C'è in atto un combattimento spirituale e noi non possiamo ignorarlo. Questo personaggio ci ricorda anche che il diavolo adotta delle strategie molto chiare per derubarci delle benedizioni invece che Dio vuole darci. Nel versetto 8 noi leggiamo la strategia del diavolo. Qui ci viene presentata la strategia del diavolo perché c'è scritto con molta chiarezza che faceva opposizione agli apostoli, questo Bar Gesù, questo falso profeta, questo figlio del diavolo, faceva opposizione agli apostoli, ascoltate bene, cercando di distogliere il proconsole dalla fede, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Questa è la strategia del diavolo. Lui cerca di distogliere la nostra attenzione da quelle che sono le rivelazioni di Cristo Gesù. In questo momento il diavolo è all'opera per cercare di distogliere la tua concentrazione da quella che è la rivelazione di Dio nella parola sua, affinché tu non possa afferrare le benedizioni che lui ha in mente per te. Dio ha delle benedizioni per te. Dio vuole che tu sia ripieno di fede. È attraverso la fede che tu possa ottenere conquiste e vittorie nella tua vita. C'è un nemico a cui tutto questo non piace e adotta una strategia molto chiara e, se siamo sinceri, molto evidente nella vita di ciascuno di noi, che è chiamata distrazione. Il diavolo cerca continuamente di distrarci, di distogliere la nostra attenzione da ciò che è più importante, affinché ciò che è più importante non sia afferrato da noi e affinché noi non siamo benedetti da ciò che Dio vuole rivelare di se stesso nelle nostre vite. C'è una minaccia alla voce di Dio nella nostra vita, ed è chiamata distrazione, ed è chiamata altre voci. Quale voce stai ascoltando? Da cosa ti stai facendo prendere? A cosa sei concentrato? Su cosa sei focalizzato? Stiamo per entrare in quella che è una delle stagioni dell'anno, l'estate, che è sicuramente per eccellenza la stagione di più forti distrazioni. Io non sono contrario al mare, io non sono contrario alle vacanze, io non sono contrario a un sano periodo di relax. Sia ben chiaro, lo metto come premessa per tutti voi, io vi auguro l'estate più rilassante, più gioiosa, con delle buone vacanze, ma quello che mi sento di dire, guidato dallo Spirito Santo, in qualità di pastore di questa chiesa, è non lasciarti distrarre, non lasciarti deconcentrare e focalizzare dall'opera strategica del maligno che viene per rubare, ammazzare e distruggere. Il diavolo è un ladro e lui vuole derubarti delle benedizioni di Dio. Non perdere la concentrazione e non perdere l'attenzione da quella che è la voce di Dio per te. Prega, leggi la parola, medita la parola, digiuna, cerca tempi di qualità con Dio. In questa stagione che ci sta davanti abbiamo più tempo libero, non per permettere meglio al diavolo di sconcentrarci dalle vie che Dio ha per noi, ma abbiamo più tempo libero per concentrarci maggiormente su quello che Dio vuole dire nelle nostre vite. Acquista un libro buono che possa alimentare il tuo spirito, leggi un nuovo libro della Bibbia che ancora non hai letto, fai un digiuno in più, cerca la presenza di Dio, perché Dio vuole benedire la tua vita, Dio vuole in questa stagione portarti di fede in fede, di gloria in gloria. Non dobbiamo arrivare a settembre raccogliendoci come pezzi col cucchiaino, dobbiamo arrivare a settembre più forti che mai. Questa è la mia preghiera, e potrei concludere qui l'incontro, la mia predicazione. Qualcuno dice amen perché vuole che finisca qui di predicare, ma avrai pazienza con me ancora per 20 minuti. Il diavolo è un ladro, posso ricordartelo. E il diavolo purtroppo è all'opera e devo ricordartelo. Quello che vivi non sempre è solo determinato da cose naturali. L'Apostolo Paolo ha avuto discernimento nel vedere in quest'uomo uno spirito che non era mosso da Dio, poteva vedere in quest'uomo semplicemente una persona che era distratta, confusa e che portava confusione, distrazione nel proconsole al quale lui stava evangelizzando, ma l'apostolo Paolo aveva discernimento e ha riconosciuto in quest'uomo l'opera del diavolo. Quante cose naturali ci accadono ogni giorno e quanto siamo attenti a esercitare il dono del discernimento degli spiriti per capire dov'è veramente lo Spirito Santo, dov'è che Dio sta agendo e dove invece è il diavolo, il maligno, il ladro, l'omicida, colui che vuole derubarci dalle nostre vittorie. Io prego che questa mattina tu possa accendere un nuovo interruttore nella tua vita, ed è l'interruttore del discernimento degli spiriti, che tu possa guardare alle circostanze che stai attraversando oggi, che vivi stamattina, e chiederti: ma tutto questo è normale, è naturale, ha a che fare con quella persona e questa situazione o quell'altra situazione, o ha a che fare con un nemico che si nasconde dietro quella persona, che si nasconde dietro quella situazione, che si è nascosto dietro quell'altra situazione e che vuole derubarmi della vita piena che Dio ha in mente per me? Accendi l'interruttore. Sii ripieno di Spirito Santo, discerni gli spiriti e non vivere le cose tutte solo in una maniera naturale, perché c'è un mondo spirituale che, sebbene noi non vediamo, è molto attivo attorno alle nostre vite ed è molto in guerra contro le nostre anime e contro le nostre famiglie e contro i nostri matrimoni e nelle nostre relazioni e nella nostra collaborazione anche di servire Dio insieme come Chiesa. È straordinario. Ogni volta che noi facciamo un grande evento dove Dio opera potentemente, hai la possibilità sempre di vedere questo combattimento. Maggiori sono le conquiste, maggiori sono i passi coraggiosi che facciamo nella fede, maggiori sono le lotte, maggiori sono le persone che escono fuori distrutte, demoralizzate, scoraggiate. Possiamo essere sinceri in tutto questo? È molto probabile che dopo Gesù per tutti, fatto in piazza, tu abbia avuto una settimana molto difficile. E sai perché? Non perché le situazioni sono cambiate nella tua vita, ma perché c'è in atto un combattimento spirituale che vuole derubarti della gioia delle conquiste avute. Occhi spirituali. Dobbiamo avere occhi spirituali e dobbiamo riconoscere, come c'è scritto in Efesini 6, che il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Non dobbiamo risolvere sempre solo dei conflitti relazionali, non dobbiamo sempre solo fare counseling per capire che cosa sta succedendo nella mia vita emotiva. Dobbiamo comprendere che c'è un combattimento spirituale che può essere affrontato e vinto solo con le armi spirituali della preghiera, del digiuno, della fede, della parola di Dio che è la spada. Amen? Avete seguito un po' i mondiali di quest'anno, no? Sono un po' tristi perché l'Italia non c'è, quindi mi dispiace per gli argentini perché sono usciti fuori. Se c'è qualche tedesco, mi dispiace anche per qualche tedesco che è dovuto uscire. Uno dei gol più belli di questo mondiale, secondo me, e vi invito veramente ad andarlo a vedere, lo ha segnato Ronaldo. Ronaldo si è ritrovato in questa situazione, era l'88esimo minuto della partita. Il Portogallo stava perdendo e quella sarebbe stata l'unica occasione, e Ronaldo lo sapeva molto bene, per decidere se portarsi a casa un pareggio o tornare a casa da sconfitto perdendo la partita. È stato assegnato dall'arbitro un calcio di punizione al limite dell'area e se andate a vedere le immagini è straordinario, perché nel momento in cui l'arbitro fischia questo calcio di punizione, la faccia di Ronaldo, la concentrazione di questo calciatore cambia totalmente, afferra la palla, la piazza esattamente dove l'arbitro gli dice di posizionarla e conta 5 passi esatti per la rincorsa giusta da prendere nel calciare quella palla e metterla nella giusta traiettoria nella porta. E tu osservi questa scena che è incredibile, perché tu da quel momento in poi vedi Ronaldo che ha uno sguardo concentrato, alza i suoi pantaloncini, guarda la palla ed è concentrato solo sulla traiettoria. Nel frattempo l'arbitro posiziona le persone che si mettono in barriera, e quello che succede nell'area di rigore è che questi giocatori cominciano a spintonarsi, a crearsi degli spazi, e l'arbitro deve intervenire. In tutto questo Ronaldo non si fa sconcentrare da quello che sta succedendo nell'area di rigore, e lo vedi guardare dritto alla traiettoria, guarda solo la palla e guarda solo l'angolo dove sta per segnare il suo gol, perché è convinto che avrebbe segnato. L'arbitro, dopo aver un po' calmato gli animi nell'area di rigore, indietreggia, e lo vedi indietreggiare verso proprio la posizione di Ronaldo. Ronaldo non si fa deconcentrare, l'arbitro gli viene letteralmente addosso, vi incoraggio ad andarla a vedere, e lui che fa? Non si sposta Ronaldo per far passare l'arbitro che sta procedendo a ritroso, no, lui rimane piazzato lì, prende l'arbitro e lo sposta perché lui è concentrato sul gol che sta per segnare. L'arbitro fischia questo calcio di punizione e Ronaldo con esatta precisione calcia quella palla e la mette all'incrocio dei pali. E tutto questo io ve lo sto raccontando non perché è semplicemente una bella illustrazione, ma perché in 1 Corinzi capitolo 9 versetto 24, alla luce di questa illustrazione che vi ho dato, ascoltate queste parole. L'apostolo Paolo dice: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, dice la parola di Dio. È disciplinato, è controllato, è equilibrato, è focalizzato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, che del resto il Portogallo non otterrà, nonostante il bellissimo gol che abbia fatto Ronaldo. Ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Hanno una prospettiva un po' diversa queste parole. È Dio stesso che ci invita a guardare gli atleti, a come loro sono disciplinati, focalizzati, concentrati, vivono una vita di sacrifici, fanno delle diete, sono sul campo quando è necessario e quando non è necessario, e lo fanno per ottenere un premio che è corruttibile, che rimarrà su questa terra. E Dio ci invita, ciascuno di noi, ad osservare questi atleti e a renderci conto che il nostro premio è di maggiore valore, ha un peso eterno, ed è per questa ragione che non possiamo lasciarci distrarre, per questa ragione che molto più di Ronaldo noi dobbiamo essere concentrati per quella vittoria e quella conquista che Dio ha per noi. Conoscere di più di lui, conoscere di più della sua parola, stare più tempo con Lui, vivere la preghiera, vivere l'adorazione, consacrare le nostre vite, tutto questo non viene nel partecipare all'incontro domenicale in chiesa. Questo è un punto di partenza molto importante. Io vi invito anche in questa stagione a non perdere gli incontri domenicali, perché in questo momento lo sentite, lo Spirito Santo sta parlando ai nostri cuori. E lo Spirito Santo ama parlare ai nostri cuori quando noi siamo riuniti insieme come Chiesa, perché facciamo quello che Gesù ci ha istruiti a fare. Non mancare agli incontri domenicali. Ma non basta questo. Sii disciplinato. Leggi la Bibbia ogni giorno. Prega ogni giorno. Cerca la presenza di Dio nella tua vita. Combatti con ogni forza e con ogni disciplina contro ogni distrazione diabolica del nemico che vuole rubarti di ogni preziosa benedizione che Dio ha per te. Amen. C'è un altro aspetto che io amo di questa storia che abbiamo appena letto, ed è la contrapposizione che questa storia ci presenta dell'apostolo Paolo e appunto di questo personaggio, Bar Gesù. È una contrapposizione interessante, anche perché non la leggiamo solo in questi versi, si trova in altre parti anche degli Atti degli Apostoli. Da una parte la parola di Dio ci mostra che gli apostoli erano pieni di Spirito Santo, dall'altra parte ci mostra uomini, donne e persone che sono ripiene di altro. L'apostolo Paolo, noi leggiamo nel versetto 9 che dice a quest'uomo: o uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia. E poco prima noi leggiamo: allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso negli occhi, gli disse: o uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia. La vedete anche voi la contrapposizione? C'è da una parte l'apostolo Paolo, che è pieno di Spirito Santo e nella sua autorità, ripieno di Spirito Santo, guarda negli occhi fissi quest'uomo, e dall'altra parte c'è quest'uomo che è pieno di ogni frode e di ogni malizia. E questa contrapposizione è interessante, perché io vorrei che voi comprendeste bene che la Bibbia in questo paragrafo non ha l'obiettivo primario di raccontarci la conversione di un governatore romano. Non è questa la primaria e più importante ragione per la quale Luca ha scritto queste parole ispirato da Dio. Altrimenti avrebbe con molta più ricchezza descritto questo proconsole che noi leggiamo, Sergio Paolo, che viene a conversione. Ma avete visto quante poche parole sono dedicate a quest'uomo? Perché l'obiettivo principale di questo paragrafo non è raccontarci come un governatore romano sia venuto a conversione, ma piuttosto dimostrarci la potenza di Dio in uomini che hanno fede in Lui e che sono consacrati e svolgono una missione a favore del regno di Dio, in contrapposizione con l'opera del diavolo e il suo tentativo di ostacolare tutto questo. Questo è l'obiettivo di questo paragrafo. E la mia domanda a me e a te nel leggere queste parole è: di cosa siamo pieni? Di cosa sei pieno tu stamattina? Puoi dire di essere pieno di Spirito Santo o sei pieno di altro? Ora, è mia convinzione che nessuno si trova nella condizione di Bar Gesù. Nessuno di noi è figlio del diavolo. Nessuno di noi è un falso profeta. Nessuno di noi agisce operando nelle arti magiche e occulte. Però è anche vero che ciascuno di noi può essere ripieno di così molto altro rispetto a quello che è il piano di Dio, di essere ripieni al punto di straripare della presenza di Dio stesso nella persona dello Spirito Santo. Di cosa sei pieno? Forse di amarezza. Forse sei pieno di delusione nel tuo cuore. Forse sei pieno di rabbia. Di cosa sei pieno stamattina? Forse sei pieno di tristezza, di un'angoscia che ti morde allo stomaco e non sai come risolvere. Sei pieno di tutto questo e questo ti butta giù. Questo ti fa sentire schiacciato, oppresso. Ciò che dentro di te è male porta le tue giornate ad essere determinate da quel male. In altre parole, ciò di cui noi siamo pieni determina ciò che diciamo e ciò che facciamo e come viviamo le nostre giornate. Quest'uomo, Bar Gesù, ripieno di ogni malizia e di ogni frode, parlava in una determinata maniera, agiva in una determinata maniera. Dall'altra parte l'apostolo Paolo, ripieno di Spirito Santo, parlava in una determinata maniera, agiva in una determinata maniera. E la mia domanda a me è: di cosa sono pieno io stamattina? Della potenza dello Spirito Santo, che mi dà autorità di essere al di sopra di ogni altra cosa, o schiacciato dall'angoscia, dalla tristezza, dall'amarezza? Di cosa sei pieno stamattina? Siamo come dei palloncini. Ho un compressore al posto del... Siamo fragili come un palloncino. E siamo così facilmente trascinati da ogni sentimento, da ogni emozione del momento. Il vento ci può trascinare da ogni parte. E se siamo pieni di noi stessi, non voliamo. Se siamo pieni di noi stessi, siamo destinati, sì, forse qualche volta con il vento dello Spirito Santo, della presenza di Dio nelle nostre riunioni, qui la domenica, c'è una spinta che ci porta in alto, ma cadiamo giù il lunedì, il martedì, il mercoledì, perché dentro di noi, non c'è quella spinta che ci permette di essere in autorità e superiori a tutto. È ovvio che ho portato dei palloncini ripieni di elio, ve li prendo. Ed è una semplice illustrazione per portarci a riflettere di che cosa siamo pieni. Di cosa sei pieno? Quando sei pieno dello Spirito Santo, le circostanze possono venire e possono cercare di buttarti giù, cercano di schiacciarti, cercano di ostacolare quello che è il percorso che Dio ha per te, ci sono delle funi che ti tirano in giù, ma quando sei pieno dello Spirito Santo c'è una potenza interiore che è più grande di qualsiasi oppressione esteriore, e tu hai l'autorità di ergerti, elevarti e volare. Io non sgancerò questi palloncini perché se no non so come li andremo a riprendere, ma voi capite bene che questo è quello che il Signore vuole fare nelle nostre vite, riempirci della sua presenza, per permetterci sempre di volare, sempre di essere al di sopra. Di cosa sei pieno stamattina? Di te stesso? O sei pieno dello Spirito Santo? Di mezzo c'è solo una scelta. Di mezzo c'è solo una scelta. Non è così complicato. Non è così difficile, non è così mistica come cosa, no? Speriamo che lo Spirito Santo mi riempia. Speriamo che un giorno, come è successo negli Apostoli, lo Spirito Santo scenda con lingue di fuoco e mi riempia e mi dia la forza, la capacità, l'autorità che l'Apostolo Paolo aveva, come abbiamo visto anche in una storia precedente, di alzarsi in piedi nonostante fosse stato appena lapidato. Non è qualcosa che accade così, d'improvviso. Per volere solo di Dio. Dio lo vuole, Dio vuole riempirci dello Spirito Santo. Posso ricordartelo stamattina? Lui vuole che tu sia riempito di Spirito Santo. Infatti Gesù ha detto ai suoi discepoli: conviene che io me ne vada, è importante che io vada al Padre, così che io possa mandarvi il Consolatore, lo Spirito Santo, e voi possiate essere ripieni come sono pieno io. Della potenza che vi darà la possibilità di essere testimoni in questa terra e capaci di affrontare ogni sfida. È necessario che io vada al Padre. E Gesù con entusiasmo è andato al Padre per poi mandare lo Spirito Santo sui suoi figli, su ciascuno di noi. A noi tocca desiderarlo, chiederlo e ricercarlo con tutto il cuore. Fare la semplice preghiera e dire: Spirito Santo, io ho bisogno di te. Io non voglio essere pieno di amarezza. Io non voglio essere pieno di rabbia. Io sono stanco di essere pieno di critica. Io sono stanco di essere pieno di tutte le cose che mi succedono attorno e non c'è un filtro, non c'è una barriera protettiva per il mio cuore e il mio cuore incamera tutto e io sto scoppiando dentro di questa angoscia che mi butta giù, che mi schiaccia. Io voglio te, Spirito Santo. Tu sei la promessa di Dio per me e io voglio la pienezza tua nel mio cuore, nella mia vita, per essere quell'uomo, quella donna che tu mi chiami ad essere, per adempiere la missione alla quale tu mi hai destinato. Voglio essere concentrato, determinato, disciplinato. Voglio essere focalizzato come un atleta. E voglio desiderare con tutto il mio cuore di elevarmi oltre le mie forze a quella statura di uomo e di donna di fede alla quale tu mi destini ad essere, mediante non le mie forze, ma mediante la potenza dello Spirito Santo. Stamattina possiamo scegliere tutti di fare questa preghiera. Dalla primissima fila all'ultima, chi sta in piedi, chi sta in regia, noi tutti possiamo scegliere di chiedere allo Spirito Santo di riempirci. Ma io lo voglio fare con voi e lo voglio fare anche per voi, voglio pregare per te. È una scelta tua personale, che parte stamattina, ma non si limita a questo incontro. Nel prendere la cena del Signore questa mattina abbiamo la possibilità di decidere. Davanti a Dio, in virtù di quello che è stato il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Dire io voglio chiudere con ogni compromesso nella mia vita, voglio fare un patto con me perché tu hai fatto un patto con me. Voglio dedicare la mia vita a te. E voglio che questo sia l'inizio di una nuova stagione. Vogliamo alzarci in piedi. Senti che questo messaggio è per te, io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e alzare le tue mani. Alza le tue mani in segno di arresa, alza le tue mani in segno di ricerca e di fame dello Spirito Santo. Alza le tue mani in questo luogo. Concentrati su quel Dio che ti vede, ti ha parlato stamattina. E Padre, nel nome di Cristo Gesù, io voglio pregare affinché tu possa mantenere fede alla tua promessa anche questa mattina. Io so che sei un Dio fedele, io so che sei un Dio che non viene meno alle promesse che dà e io so, Padre, che il libro degli Atti degli Apostoli non è un libro chiuso e queste storie non sono relegate a solo uomini di 2000 anni fa. Questa è la storia della Chiesa e della Chiesa di oggi. E Padre, io voglio pregarti nel nome di Cristo Gesù affinché prima di tutto ognuno di noi possa essere svuotato. Io prego nel nome di Cristo Gesù che ogni malizia, ogni rabbia, ogni rancore, ogni amarezza, ogni delusione possa lasciare i cuori dei miei fratelli e delle mie sorelle. Nel nome di Cristo Gesù, per la potenza del sangue di Cristo Gesù, io prego di lavare i nostri cuori. Io ti prego di liberare i nostri cuori e le nostre menti da tutto ciò che è male. Gesù, tu ci hai insegnati a pregare, liberaci dal male e io prego in questo momento che tu possa liberare le persone che stanno davanti a me da ogni male. Noi lo rifiutiamo, Gesù, noi non lo vogliamo dentro di noi, noi rifiutiamo che il nostro cuore sia ripieno di noi stessi e di ogni carnalità, di ogni peccato, di ogni circostanza. Noi diciamo no e basta a tutte queste cose. Nel nome di Cristo Gesù prego questo. Invito te, Spirito Santo, tu che tanto brami essere pienamente in noi, a scendere in questo luogo e a riempire i tuoi figli e le tue figlie. Battezza, riempi. Fai traboccare della tua presenza ciascuno di noi. Abbiamo fame di te, Spirito Santo. Ti desideriamo con tutto il nostro cuore. Vogliamo essere dissetati di quell'acqua che disseta veramente. E vogliamo traboccare di quell'acqua, vogliamo essere delle fonti di acqua pura, vera, che possiamo elargire ad altri. Io prego, Spirito Santo, di riempire ciascuno di noi. Ti desideriamo. Perdonaci per quanto ti abbiamo ignorato, per quanto poco ti cerchiamo. In questo momento noi preghiamo che tu possa scendere e riempirci, scendere e riempire i nostri cuori, tutti i nostri cuori. Riempici, Spirito Santo.